passo notti insonni rigirandomi sul letto, immaginandoti stretta attorno a un petto che non è il mio, come fosse per dispetto e non volessi più il mio affetto. Ma io ti aspetto, passo le giornate con te in mente, mentre malevolmente molta gente mi dice basta, sii più intraprendente e fa un po' festa, come se questa mi interessasse. E se non bastasse, la mia pulsazione va a frequenze basse, come fossi un corpo in decomposizione. La frustrazione di vederti in foto, in posizione, la posizione, quella nostra, il tuo maglione, sdraiati insieme sul divano, ho già il magone, vedendoti con quel villano, la desolazione prende posto in più di un'occasione. Sto nell'acqua con un cappio ai piedi ad un mattone, e tutti a dirmi, con il tempo passa, fai una sauna, ma non passerà mai questo trauma, e ne risente forte pure il karma, sono un soldato in guerra senza l'arma. Notti insonni, per molti giorni, mi sono fatto completamente pensando a te. Notti insonni, per molti giorni, mi sono fatto completamente pensando a te. Insulti tra mille cattiverie volati, 7 mesi certamente non saranno scordati, come accordi scordati, gli strumenti spezzati, il sentire le voci, emanare più fiati, mi ha reso triste, irritato, cattivo e balordo. Davo a bordo, tutto il corpo fino a tribordo, e mi deformo, e se posso ancora mi informo su di te, che mi hai cancellato dal mondo. Percepisco il peso della sofferenza, la tua costanza, in cambio della mia arroganza, passo ridanza, per un duoco di eleganza, se ne infischiava come e poi per l'ignoranza di molta gente. È il momento che io si esoriente, sono esaurito nell'afferrare un salvagente, sono finito nel profondo del proibito, ma ciò che mi ha colpito è più ferito e deprimente. Ora ti dico, 3 anni 6 mesi e un amore distrutto, vita come siamesi dicendosi tutto, sentimento mentale ma col fisico intatto, perché non era tutto il discorso contatto, ma poi l'abbiamo fatto e c'è stato uno scatto. Da quel giorno poi finita ed ho dato rimatto, ho visto nei tuoi occhi uno sguardo ragatto e mi è sembrato un rapporto saldato tipo contratto. Mi hai tolto l'anima, ma lo stesso scende la mia saliva. Ripenso a noi, vedo solo il bello della storia, ed è fobia pensare che non sarei mia, mentre vivo in agonia perché sei via. Notti insonni, per molti giorni, mi sono fatto completamente pensando a te. Notti insonni, per molti giorni, mi sono fatto completamente pensando a te. Ti ho chiesto sei felice, hai detto sì nonostante fossi un salice che in un calice versava anice, lacrime amare. Hai rinfacciato che è colpa mia se non siamo più insieme a sperare, da incorniciare, piccola stronza. Volevi piccoli gesti, accorgimenti, attenzioni, mentre ti facevi 20 più coglioni. Che dovevo fare? Ancora più effusioni? Questa ipocrisia non è più mia, da quando mi hai fregato con 2 ragazzotti e anni dopo, amici miei, a mettere i bastoni in una relazione durata 13 stagioni. E sono fuori? Sì lo sono, io che perdono e perdo il dono e prendo il volo, un microsuono, o mi vuoi no? Allora hip hop è un microfono. Ascolto il cuore, andate in frantumi, schiacciato e tritato come un sacco di agrumi, vedendo i grumi sui miei sogni futuri, sento sentimenti scuri e bisogni impuri. Vivere vivendo una vita felice, un amico inconoscente se diventa una lince e ti lincia tutto ciò che hai. Bastardi, vigliacchi, codardi direi. Così ti trovi solo nel profondo sconforto, con persone da odiare sperando di essere morto, o con mente malata e vedere distorto, per restare tra i sogni e passare assorto i giorni nel conforto di persone fidate, ma scordi consigli non l'ho mai ascoltate. Per loro dovrei dimenticare in fretta, ma anche se mi hai fatto male vorrei poter sapere che alla tua porta a braccia aperte qualcuno ancora mi aspetta. Notti insonni, per molti giorni, mi sono fatto completamente pensando a te. Notti insonni, per molti giorni, mi sono fatto completamente pensando a te. Completamente pensando a te. Completamente pensando a te. A te, a te, a te, completamente pensando a te.